Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon lunedì 12 dicembre, sono le 8:20 e 35 secondi dai studi di Milano, sono Oscar Giannino a salutarvi oggi ed è uno di quei giorni in cui giuro non vorrei essere qua, per il semplice fatto che molti probabilmente lo avrete già ascoltato dai GR e da Giulio Crivelli prima, nelle numerose volte che nei giorni, nelle settimane passate non c'era Alessandro Milan, noi ovviamente siamo stati discretissimi, gli mandavamo dei grandi abbracci e stanotte Alessandro Milan, che non è qui come in studio, ha reso noto che Francesca Del Rosso, sua moglie, sua compagna, la mamma dei suoi due bambini, ci ha lasciato perché aveva un male molto grave. E io posso solo dire che bisogna in queste circostanze sperare che il cuore ci dica che senso abbiano cose che a chiunque appaiono prive di senso. E do un grande bacio a Francesca Del Rosso, infinito. Ha scritto stanotte: Alessandro ci guarda da un posto particolare, il paradiso. Un grande abbraccio a Alessandro, ai suoi due bimbi e a tutti coloro che gli vogliono bene, e a nome della comunità e tutti gli ascoltatori, molti di voi stanno già scrivendo i vostri messaggi, poi noi li terremo da parte, li faremo vedere a lui. Io posso solo dire che fatico molto, credo che si senta, ad andare avanti, ma sono le cose, ripeto, per chi poi ha bimbi piccoli e unisce il grande amore di una compagna fondamentale di vita all'amore innestato di bambini, sa perfettamente, comunque la pensi, che queste sono circostanze triplamente pazzesche. Comunque, ovviamente un grande abbraccio e grazie a tutti voi che scrivete. E noi però siamo qua per fare il nostro amaro mestiere, per me ancora più amaro, perché naturalmente so benissimo che questa trasmissione, la sua comunità di ascoltatori, da anni e anni si deve al grandissimo quotidiano sforzo di alternare i toni, di sapervi anche intrattenere da parte di Alessandro Milan, e quindi io gli rendo onore anche per questo. Allora, lunedì 12 dicembre, arriveremo prestissimo, tra pochi secondi, ai 2-3 punti fondamentali secondo me dei quotidiani di oggi, e a dirvi immediatamente chiamate all'800240024 per dirci comunque come la pensate rispetto a questo incarico dato all'ex ministro degli esteri, adesso presidente del consiglio incaricato, Paolo Gentiloni. È la stessa solfa di prima, cioè totale continuità con Renzi. Ci sono invece significative novità, come sostengono molti interpreti politici della parabola di Gentiloni. Gentiloni è un personaggio singolare, è un nobile di antica famiglia che ha avuto un grande ruolo nella conciliazione con la politica della destra reazionaria cattolica dopo la questione nazionale del 1870. Il patto Gentiloni, cavolo del Novecento, inizio del Novecento, era proprio questo. Però di suo è un extraparlamentare di sinistra, è un verde, è contemporaneamente un democristiano che entra a sinistra, che entra da democristiano, cioè da cattolico, nel PD e parla da democristiano, e tante cose insieme di come si possa costruire una parabola politica con segni culturali completamente diversi. Lo dico con profondissimo rispetto, diteci voi come la pensate. Io mi limito a segnalare alcune delle cose che più mi hanno colpito stamattina nella presentazione dei quotidiani. Per quello che riguarda la cifra personale del presidente del consiglio incaricato, ecco, forse Marcello Sorgi sulla Stampa mi è sembrato tra i commenti quello più esplicito: una brezza da Prima Repubblica. Ecco, tanto vale dire le cose come stanno e quindi cogliere né la complessa personalità dell'extraparlamentare, dell'ambientalista, di uno dei teorici da sempre dell'Ulivo, quindi insomma un'alleanza un po' consociativa piuttosto che una scelta nettamente socialdemocratica per l'ex partito DS e così via. Cogliere soprattutto insomma il motivo che fa dire oggi in un'intervista a un suo grande amico che ha condiviso con Paolo Gentilone gli anni della parabola verde ambientalista, gli fa dire, beh sì, insomma Gentilone ha una caratteristica, che è capace di usare anche espressioni che durano minuti e minuti per dire che un interlocutore è un cretino, diciamo, è una personalità molto diplomatica, molto rotonda, e mettere a lacci a esprimersi in questo senso, molto rotonda, che anche per questo quindi è scelta dal Presidente della Repubblica, ma è scelta dal Presidente della Repubblica con un'anomalia, perché la delegazione del PD non aveva fatto nomi al Presidente della Repubblica. È stato poi in una telefonata il Presidente del Consiglio uscente Matteo Renzi a fare questo unico nome, e qui c'è tutta una panoplia di interpretazione. Molti dicono ha scelto Gentiloni perché è quello che gli dà meno noia, perché non buca in televisione. E su questo secondo aspetto, che fa parte anche delle domande, se volete intervenire 800 24 00 24, per dirci: ma Renzi come sta messo secondo voi? Io vi sottolineo una cosa: tra tutti i quotidiani che giustamente dedicano alcune pagine a descrivervi il Renzi a casa ieri con la moglie Agnese e i due bimbi, quello che coglie secondo me un po' meglio i punti con cui si trova oggi alle prese Matteo Renzi, io vi segnalo le due pagine, pagina 6 e 7 di Repubblica, con i due articoli, uno di Massimo Vanni e l'altro di Giovanna Casadio. Perché la questione è questa. Titolo del primo articolo: Renzi prepara il blitz, cambiare lo statuto sul congresso, primaria a febbraio. La pagina di destra, pagina 7, la sinistra del PD, virgolette, non ci stiamo. Allora Matteo corre da solo. Qual è il punto? Il punto è che Renzi adesso vorrebbe immediatamente le primarie a febbraio, e per questo ha bisogno di cambiare le regole dello statuto del partito, cioè non vuole passare per i circoli del congresso, vuole immediatamente le primarie, con questo cancellare con una sua vittoria che a questo punto dà più o meno per scontata e travolgente, con più di 2 milioni di voti nelle primarie del partito, cancellare l'impressione negativa della sconfitta del referendum, immediatamente riappropriarsi formalmente, ufficialmente, di una grande iniezione popolare a suo vantaggio, e a quel punto veleggiare verso elezioni al più presto possibile. Questo però significa domenica, la prossima assemblea, chiamare l'assemblea del partito per l'ennesima volta, mettere di fronte al dato di fatto, abolire il passaggio per i circoli del partito e andare direttamente a il bagno di folla, per l'ennesima volta quindi restringendo ogni spazio di confronto interno. Ecco, io credo che Repubblica centri bene questa questione, che ovviamente è una questione di tecnica interna del partito, ma che ha a che vedere con: si fa un bilancio critico in pubblico o no delle sconfitte, quella amministrativa e quella del referendum? La risposta è no, ovviamente, per il leader, comprensibile dal punto di vista della comunicazione, un po', diciamo così, forse sempre più stressata di fronte al fatto che poi, a furia di mettere la polvere sotto il tappeto, ma questo io rispetto l'opinione di ciascuno iscritto al PD. Vi segnalo altre due questioni. La prima questione è quella su cui Renzi comunque è riuscito a fare quello che voleva, cioè, se vedete i grandi giornali, nessuno in realtà punta il dito sul fatto che ha fatto scaricabarile sulla vicenda MPS, lasciandola per 7 mesi esattamente dove era consegnata alle decisioni da assumere in quella banca dopo gli stress test europei. E lui ci è riuscito, in buona sostanza, a dire se ne occuperà un altro governo. Questa settimana, anzi riparte oggi stesso dopo la delibera di ieri, la richiesta di conversione volontaria da parte dei sottoscrittori, piccoli risparmiatori dei bond subordinati in equity, in azioni. Dopodiché per giovedì, venerdì dovrebbe essere atteso il decreto, una volta che è formato, una volta per sempre, definitivamente, perdonatemi, il governo Gentiloni, è perfettamente girando con tutti i ministri nelle mani del capo dello Stato. Non mi soffermo sulla composizione del governo, questo si vedrà, seguo poco i gossip. Mi sembra più importante dirvi: attenti, cari detentori di titoli subordinati MPS, dovete fare una scelta nelle prossime 72 ore. È vero che leggete sui giornali che potete contare poi sul fatto che subentra lo Stato al consorzio di garanzia delle grandi banche private, ma quello che non potete fare è date un occhio ai criteri con cui nelle quattro banche si è deciso il ristoro. Erano criteri di reddito e di patrimonio. Ecco perché, se non ci rientrate, dovete farvi i conti se non vi convenga esercitare comunque la conversione, perché se siete fuori da quei criteri è un po' difficile immaginare che alla fine lo Stato darà un ristoro se dovesse intervenire fallita, cioè la via di mercato all'ultimo secondo, diversi da quelli delle quattro banche. Questo è quello che mi sento dire per dare l'unico consiglio concreto possibile. E comunque il decreto conterrà misure per quasi 15 miliardi, mica solo per MPS, servono per le quattro banche, servono per Veneto Vicenza, servono tutta la polvere messa, mi dispiace, dal governo uscente, dalle autorità di regolazione del mercato sotto il tappeto. Ultima questione, guardate che la legge di bilancio appena approvata, anche questo, i giornali se ne fregano in cavalleria, ovviamente solo 24 ore, trovate pagine e pagine in cui vi spiega la prossima legge di bilancio. La legge di bilancio approvata in poche ore è piena di guai. Perché? Proprio perché approvata in poche ore non è stata modificata. Non è stata modificata. Questo significa che, per esempio, per 2.200.000 piccole imprese italiane c'è il nuovo modello obbligatorio di contabilità per cassa, che uno dice: ah, ma finalmente per cassa l'avete chiesto da anni, ma altra cosa è poterlo scegliere, altra cosa è beccarselo come obbligatorio. E con la legge di bilancio approvata così e cos'ha, non è stato possibile fare alcuna riflessione né su questo né sullo spesometro trimestrale dal 2018. Quindi a questo punto, per il governo Gentiloni si porrà il problema: ma la correggete con le mille proroghe oppure no? Beh, comunque ve lo voglio segnalare, perché al di là delle tutte le chiacchiere sulla politica, chiacchiere fondamentali per carità, come è formato il governo, ma la Boschi resta oppure no, ma che facciamo della legge elettorale, però queste sono cose concrete che aggrediscono da il primo di gennaio milioni e milioni di italiani di imprese. Non è che ce le possiamo dimenticare, no? Che dite, cari autorevoli colleghi? Allora, intanto adesso andiamo in pubblicità, poi avremo due ospiti su cui interrogarci sulla scelta del capo dello Stato. Avremo con noi Massimo Giannini di Repubblica e Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Voi telefonateci intanto, ora pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, tornati in onda, oltre 35 primi 56 secondi, sono Oscar Giannino, lo sapete, ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, Alessandro non è con noi, stanotte ci ha lasciato e ha lasciato lui e i suoi due bimbi, sua moglie Francesca e Rosso, abbracci, abbracci, abbracci da parte di voi tutte e grazie perché ci state scrivendo e gli faremo vedere tutto. Allora, rendiamo su la questione, la scelta del capo dello Stato, Gentiloni, nome unico da parte di Renzi, e a questo punto la mia domanda ad Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, è, leggo il titolo stamattina del giornale, governo teleguidato Gentil Renzi. Sallusti, buongiorno, grazie di essere con noi. Non c'è proprio niente di diverso secondo te? No, probabilmente non poteva uscire nulla di diverso, del resto è quello che hanno anche chiesto le opposizioni, che hanno chiesto qualcosa, hanno chiesto che il PD si assumesse la responsabilità, e a quel punto ovviamente il PD ha fatto quello che meglio ha ritenuto. Noi non è che ci scandalizziamo che sia un Gentil Renzi, perché questo governo Gentiloni è indicato da Renzi, governerà con i ministri di Renzi, avrà la maggioranza costruita da Renzi e soprattutto al Senato con la famosa compravendita di senatori, avrà al suo interno, probabilmente lo scopriremo tra poche ore, un paio di commissari di Renzi, cioè la Boschi e Lotti, quindi è una proiezione del governo Renzi. Questo è legittimo. Renzi aveva detto un'altra cosa, aveva detto che lui si ritirava dalla politica o comunque prendeva un anno sabbatico. Non mi sembra un anno sabbatico di Renzi. No, direi di no. Senti, ma in questo parliamo di un punto specifico, te lo chiedo. Berlusconi va dal capo dello Stato e da una parte conferma, le ricostruzioni di tutti i giornali dicono, voi comprese, che non c'è disponibilità a un appoggio di cui si era ventilato, faccia il PD a lui spetta. Dall'altra però c'è la speranza di un tono di interlocuzione con Gentiloni, forse proprio perché Gentiloni rispetto a Renzi diverso dall'ultimo Renzi. Puoi darci qualche interpretazione su questo secondo punto, che cosa potrebbe voler dire in concreto nelle aspettative di Berlusconi? Ma sì, è quello che risulta anche a me, sia per quello che Berlusconi ha detto, sia per quello che ho sentito io anche in via più confidenziale. C'è un'assoluta disponibilità, anzi una richiesta di aprire un dialogo per riscrivere le regole in maniera condivisa, qualsiasi siano le regole, ma scriverle in maniera condivisa, in maniera da far uscire il paese da uno stallo. Perché se la politica è in stallo, poi va in stallo il paese. Quindi c'è una richiesta da parte di Forza Italia di dialogare col PD, ma dialogare sulle regole, non sul governo, che del resto è qualcosa di molto simile. Questo concetto era il concetto anche del Nazareno: scriviamo insieme le regole, scegliamo insieme gli arbitri e poi ognuno per la sua strada al governo, in Parlamento. Credo che siamo tornati lì, non so chi ha parlato di una dal Nazareno al Largo del Nazareno, perché io non sono esperto di Roma, ma ho letto che al Largo del Nazareno da una porta, da una parte c'è la sede del PD e dall'altra c'è l'ufficio di Gianni Letta, che è il grande tessitore di questi accordi. Immagino una cosa del genere. Allora, c'era aggiunto anche Massimo Giannini, che saluto. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Allora, secondo te, idem, stessa domanda iniziale, è tale quale, cioè il governo Gentil Renzi, come dice il giornale, come ci ha spiegato Sallusti, è una cosa di pura continuità, pura proiezione personale per adattarsi al guaio della sconfitta, ma in realtà con commissari dentro è come se Renzi ci fosse tale quale prima? Tu che dici? Sì, allo stato delle conoscenze che abbiamo direi di sì, ho l'impressione che siamo in presenza di un Renzi bis senza Renzi. Ora si tratterà di vedere attraverso la lista dei ministri se questa formula viene confermata, perché qui io vedo agire due spinte uguali e contrarie. C'è ovviamente la spinta di Renzi, che come conferma il post che ha fatto su Facebook ieri, non se n'è andato, si ritira a Pontassieve, ma non è come qualcuno con un po' troppa enfasi dice il De Gaulle che si ritira a Colombey le deux églises nel 53, sta fermo uno o due giri, poi torna e si riprende tutto. De Gaulle nella sua gioventù aveva fatto la guerra partigiana sulle montagne, Renzi nella sua gioventù ha Renzi, e a quel punto la linea ci ha lasciato però. Aspetta, allora, mentre ripristiniamo il collegamento con Massimo Giannini, iniziamo a sentire qualche ascoltatore, per esempio Sergio da Milano. Sergio, c'è? Sì, buongiorno Oscar. Eccoci. E buongiorno anche agli altri suoi ospiti, perfetto, locutori. Dici. Niente, la mia domanda è semplicemente questa, come mai il Presidente della Repubblica non ha optato per cercare di formare un governo tecnico? Ci saremmo evitati i Renzi Avatar, i Gentil Renzi e tutte queste fregnacce qua, insomma. Forse avremmo perso meno tempo e probabilmente per arrivare a definire una legge elettorale sarebbe stato più costruttivo, insomma. Grazie. Sergio, però tu lo sai che il fascino della formula tecnica è molto molto molto molto usurato, cioè, abbiamo letto sui quotidiani che lo stesso ministro Padoan, quindi ti sto parlando di una continuità assoluta con la formula di maggioranza che ha espresso Renzi, con il partito che ha espresso Renzi, sia pur da parte di un ministro dell'economia e delle finanze, non ce lo dimentichiamo, che fu imposto a Renzi, sia pur facendogli un grande regalo da Napolitano, allora capo dello Stato, perché Renzi pensava ad altri, pensava a Del Rio come ministro dell'economia e delle finanze, eppure hai letto come di fronte a quell'ipotesi Renzi fosse il primo a dire no, tecnici no, quindi la formula è un po' usurata per così dire, e oggi è pieno di esponenti del PD che dichiarano nelle interviste in questi giorni no, tecnici no, abbiamo pagato un prezzo amaro anche a Monti. Allora, si dovrebbe essere ripristinato il collegamento con Massimo Giannini, stavi dicendo De Gaulle aveva fatto la resistenza, invece Renzi poi è caduta la linea. Invece diciamo Renzi in gioventù è cresciuto con la ruota della fortuna, quindi non farei diciamo paragoni un po' azzardati, però è vero che in questo momento l'interesse di Renzi qual è? È quello di costituire un governo che rassomigli quanto più possibile a quello che c'era prima, perché questo gli dà garanzie di continuare a mantenere le leve del potere, sia pure per interposta persona, e quando dico per interposta persona intendo diversi ministri del governo precedente, con in più la presenza di Lotti, che noi sappiamo essere il suo plenipotenziario su questioni fondamentali. Ricordiamo che in primavera scadranno i vertici di 65 società pubbliche partecipate, nelle quali ovviamente Renzi vorrà avere voce in capitolo, ce l'ha avuto nella precedente tornata, vorrà continuare ad averne. Per fare cosa questo governo? Ripeto, avere in mano le leve attraverso altri personaggi protagonisti vicini al mondo di Renzi, fare la legge elettorale, diciamo tutto quello che serve nell'immediato, un decreto legge su Monte Paschi Siena, poi qui volendo ci sarebbe da aprire una parentesi su tutte le responsabilità di quest'ultimo anno, però lasciamole stare, magari ne parliamo dopo se volete, ma comunque fare la legge elettorale, il decreto Monte Paschi, sistemare quel poco che ancora si può sistemare in tempi abbastanza brevi sul fronte del terremoto, presenziare agli appuntamenti internazionali e poi andare al voto. Questo è l'interesse di Renzi, no? Aveva anche detto votiamo subito, addirittura senza fare la legge elettorale. Renzi ha fretta da questo punto di vista. Dall'altra parte però la controspinta, e l'abbiamo vista anche nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato, è quella della filiera che definirei democristiana, no? Con tutto il rispetto ovviamente, che parte dal Presidente della Repubblica, Mattarella, incrocia, se vogliamo, lo stesso Paolo Gentiloni, benché non sia un democristiano a tutto tondo, arriva fino a Franceschini e tutta l'ala degli ex Margherita interna al PD. Questi hanno un interesse diverso e l'abbiamo visto e sentito nel discorso di poche parole ma significative fatte dallo stesso Mattarella. L'interesse di questi mi pare sia quello di garantire quanto più possibile stabilità e quindi fare in modo che questo governo, se possibile governi, faccia diverse cose, non solo le due o tre che in questo momento interessano a Renzi, e se possibile arrivi a fine legislatura. Questo è uno scenario che Renzi guarda con una certa preoccupazione, perché è difficile mantenere il potere stando fuori da Palazzo Chigi, lo sappiamo bene, e quanto più questo meccanismo va avanti, tanto più tu rischi di vederti sfuggire di mano le leve del potere. Ecco, il meccanismo è quello di Dini rispetto a Berlusconi nel 95, sappiamo com'è andata, no? Esatto. Allora, la domanda per Alessandro Salusi a questo punto diventa questa: nella tua opinione, direttore, tra, mentre è chiarissimo che Salvini e il Fratelli d'Italia, la Meloni, sono su posizioni elezioni prestissimo, anzi pronti ad andare in piazza immediatamente anche sotto il Quirinale se i tempi diventano troppo lunghi, la domanda riguarda di nuovo Berlusconi, come te l'ho chiesto prima te la chiedo adesso. La strategia del tempo più lungo, che come diceva Massimo Giugni adesso, ha la possibilità di erodere la presa di Renzi, secondo te Berlusconi la considera una cosa da non dire ma da perseguire con una mano non dichiarata, se si può, oppure dice realisticamente devo mettere in piedi io per primo una cosa che tenga insieme tutti i pezzi della destra a costo di dire elezioni subito anche se non ne sono troppo convinto? Che dice Alessandro? Ma guarda, elezioni subito è nell'interesse soltanto di Grillo, soprattutto con questo, con questa legge che c'è, sia pure magari modificata in qualche modo, cioè andare alle elezioni nel caos legislativo è interesse esclusivo di Grillo, che potrebbe vincere le elezioni. Sicuramente non è l'interesse né di Salvini né della Meloni, che con questa legge elettorale rischierebbero uno addirittura di non entrare in Parlamento, gli auguro di sì ovviamente, ma c'è il rischio che non entri in Parlamento Fratelli d'Italia per via delle soglie, e certo la Lega non andrebbe da nessuna parte. Quindi io credo che ci sia molta propaganda nel fatto che Salvini e la Meloni dicano andiamo a votare subito purché sia, per contrastare dal punto di vista appunto dell'opinione pubblica i grillini, un elettorato contiguo tra Grillo e Lega, cioè l'elettorato anticasta, l'elettorato della certo. protesta, e quindi non vogliono lasciare a Grillo il primato del andiamo a votare subito, siete tutti ladri, tutti mascalzoni, tutti farabutti, eccetera eccetera. E quindi io non penso che alla fine, al di là delle parole, Salvini e Meloni vogliono davvero andare a votare subito, e quindi credo che poi alla fine si affideranno al grande mediatore Berlusconi per trovare anche loro una legge elettorale condivisa che sia meno penalizzante di quelle attuali. Dall'altra parte Berlusconi ha bisogno di una legge diversa da questa, se no anche lui rischia di non andare al ballottaggio. E non dimentichiamo che l'uomo, che è un indomabile ottimista, e spera sempre di riacquistare quella civiltà sì. politica che gli permetta di partecipare con la sentenza di Strasburgo. Vabbè, allora insomma, mi hai dato una risposta rotonda, ma come dire, insomma, se c'è la possibilità di andare avanti non escludiamo che Berlusconi la consideri positiva, e del resto mi sembra realistico. Massimo, la vicenda MPS e, ripeto, l'intero complesso di misure di cui si è in attesa con questo decreto bancario, che sarà il primo atto di nascita del governo Gentiloni, quindi riguarda Veneto, Vicenza, le quattro banche risolte, cioè questo grande prendere a calci la latina che il governo uscente ha fatto sull'intera questione bancaria, è possibile davvero immaginare, Massimo, che passi tutto in cavalleria, come se non dipendesse in larghissima misura non la mala gestione o la vendita agli risparmiatori ordinari consentita per anni scandalosamente dai regolatori italiani, ma il mettere mano alle condizioni che tutto questo aveva creato? È possibile davvero immaginare che tutto questo passi in cavalleria e che tutti diano una mano a radicare l'impressione che non c'entri niente con un'attesa decisa a tavolino dal governo uscente per 7 mesi? Come la vedi, Massimo? Ma la tua domanda è già la risposta, nel senso che io ho scritto ieri un articolo, ne avevo già fatto un altro un po' di tempo fa, per mettere in evidenza tutte le discrasie, a mio parere molto gravi, nella gestione della politica bancaria, chiamiamola così con un termine di qualche decennio fa, ma che comunque rende bene l'idea del governo Renzi. Naturalmente Renzi non ha colpe per il progressivo acuirsi della crisi delle nostre banche. Sappiamo che questa nasce da problemi e da vizi del passato che Renzi ha in qualche misura ereditato. Tuttavia, governando e avendo governato per 2 anni e mezzo, ha avuto la possibilità di mettere in campo una serie di misure che forse avrebbero aiutato, non dico a risolvere, ma quantomeno gradualmente migliorare lo stato del nostro sistema bancario. Purtroppo le mosse che ha fatto il governo, invece, da questo punto di vista, ricordavi tu le 4 banche in risoluzione e poi la vicenda del Monte dei Paschi Siena, ho la sensazione che siano state utilizzate più nella chiave, ancora una volta, strumentale, direi persino elettorale, che non in quella dell'interesse vero, generale, complessivo del Paese e dei risparmiatori, che credo stesso Renzi abbia detto. In questo senso la vicenda del Monte Paschi, secondo me, è esemplare, no? L'abbiamo scritto, non smentiti peraltro in questi giorni e non solo sul mio giornale. Quello che si è capito è che attraverso una serie di progressivi interventi a gamba tesa del governo su quella banca, perché a mia memoria erano anni che non si ricordava un ministro del tesoro che in luglio fa una telefonata al presidente del Monte dei Paschi di Siena e lo informa che il governo ha deciso, insieme a JP Morgan, in un incontro avvenuto a Palazzo Chigi sempre d'estate, che occorre cacciar via l'amministratore delegato, perché questo è quello che interessa a JP Morgan e bisogna metterne un altro. Via Viola, arriva Morelli. Per fare cosa? Un aumento di capitale riservato ovviamente al mercato, che era giusto, legittimo tentare di fare, ma che fin dall'inizio sembrava palesemente zavorrato e comunque ricco di incognite e anche di aspetti discutibili, la promessa di commissioni milionarie a beneficio di JP Morgan e della stessa Mediobanca. Allora, nel frattempo però era sempre più chiaro a tutti che senza un intervento pubblico negoziato con l'Unione Europea, ovviamente, perché noi non possiamo sfuggire da quelle regole, salvo poi continuare a dire che la perfida Bruxelles o la perfida Francoforte ci rovinano la vita, si rendeva prima o poi necessario, anzi, e questa è la notizia secondo me che ci deve far riflettere, sembra che già dalla prima dell'estate fosse pronto un decreto, esatto, che era stato addirittura concordato, esatto, e esatto, sul quale c'era già il timbro dell'Europa per questo benedetto intervento, esatto, pubblico. E io qua ti devo fermare. E devo... Boschi non l'hanno voluto, esattamente, hanno voluto, esatto, questa partita anche a me nella campagna referendaria. Torna esattamente questa ricostruzione di Massimo Giannini. Io mi auguro che questa sarà la ricostruzione a cui grandi organi di informazione dedicheranno più attenzione, però in ogni caso siamo qua per avervela già detta. Quindi io ringrazio intanto Massimo Giannini e Alessandro Sallusti per essere intervenuti oggi, e torno a mandare un abbraccio a nome di voi tutti ad Alessandro Mina. Adesso vedremo naturalmente quale sarà l'evoluzione del governo Gentiloni, e vedremo se dai suoi primi interventi non ci siano anche delle sorprese in arrivo. Io penso di sì. Guardate, la storia ci obbliga a non immaginare che Gentiloni sia una replica stanca, una specie di marionetta nelle mani di un grande mangiafoco che tira i fili. Nessuno, arrivato a quelle condizioni politiche, davvero fa la marionetta, e naturalmente toccherà a noi scoprire come e quante saranno le sorprese. Allora, continuate con la 24, appuntamento con me alle 4:30 oggi pomeriggio, e forza, forza, forza, Alessandro.